La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. Eccoci qua, 16:31 e 42 secondi, dagli studi di Milano in diretta. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, come sempre, per l'ascolto in diretta o in podcast. Se vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @24.it. Vogliate intervenire sulla serie Italia non per giovani, oppure chiedere opinioni e chiedere chiarimenti, precisi, candidarvi a puntate su altro. Di cosa parliamo oggi ve lo dico subito. In questo 27 di febbraio torniamo a fare il punto su come stanno andando le cose, perché le cose cambiano nel tempo significativamente, a dire la verità, in vista delle presidenziali francesi. Abbiamo alle spalle dei giorni in cui Emmanuel Macron, il senza partito centrista, che era assurdo a essere il vero antagonista della Le Pen, era diventato praticamente il numero due nei sondaggi per il primo turno rispetto alla Le Pen, e con un netto vantaggio nei, per quanto credibili possano essere, sondaggi per un ballottaggio con la Le Pen, in nettissimo vantaggio. Poi era stato scavalcato però da Fillon, il candidato dell'UMP, che malgrado il Penelope Gate relativo ai contributi incassati dalla moglie, a nome della moglie, quindi incassati da lui, aveva registrato una ripresa nei sondaggi, era tornato a essere il numero 2 e quindi Macron sembrava in caduta sotto il 20%. Invece, per effetto delle prese di posizione eccetera eccetera che oggi analizziamo degli ultimi giorni, Macron è tornato a essere in vantaggio rispetto a Fillon di quasi 3 punti nei sondaggi. Resta sempre ovviamente dietro al Le Pen. Uno dei punti è che però i sondaggi sul ballottaggio, che fino a una settimana fa davano un amplissimo margine a Macron o a Fillon, fossero stati entrambi ad andare in ballottaggio contro la Le Pen, e a quel punto sarebbero stati amplissimamente vincitori. Nella realtà adesso i sondaggi sul secondo turno, Macron è tornato a essere in testa, vi ho detto, per l'eventualità di essere lei ad affrontare la Le Pen, vedono il margine restringersi, e quindi per quello che può valere la sfida resta apertissima, e così resterà fino all'ultimo giorno. Vi ricordo che il primo turno è ad aprile, il secondo all'inizio di maggio, poi seguiranno le legislative a giugno in Francia. Però la questione è decisiva, perché l'abbiamo detto mille volte: una vittoria della Le Pen, sia o meno seguita poi dalla formazione di un governo del Fronte Nazionale, cosa che è molto più difficile, quasi impossibile che avvenga con le legislative al doppio turno, però è una botta clamorosa, perché si inabissa l'asse franco-tedesco, è una botta clamorosa all'euro e all'Europa, e potrebbe cambiare il corso delle cose in questo 2017. Allora, cerchiamo di capire cosa c'è dietro a questi andamenti, anche perché nel frattempo in questi ultimi giorni si è molto infittito per tutti i candidati, ma soprattutto per Le Pen e per Macron, la presentazione di nuovi punti del loro programma. Pensate che la Le Pen ha un programma articolato nella bellezza di 144 punti, ho letto, insomma, è un programma complessivo, non è solo il no agli immigrati, è un inno alla Francia che torna grande da sola, è il no all'Unione Europea, è il no all'euro, è il ritorno al tesoro che prende, dà ordini alla Banca Nazionale di Francia, che deve monetizzare il debito, il deficit. È un appello complessivo non solo al nazionalismo e contro l'elite, ma che guarda un pubblico molto trasversale, la piccola impresa che si sente fuori dalla rappresentanza degli enarchi, e il problema è capire che sviluppi avrà ulteriormente. Macron è il personaggio ancora da capire meglio, perché mentre la Le Pen sulla scena internazionale ha messo a segno un grande punto andando a Beirut e rifiutandosi di mettersi il velo, e quindi non incontrando il Gran Mufti di Beirut, cosa molto apprezzata in Francia, che ha messo in difficoltà anche le femministe di sinistra, perché lei l'ha fatto, Macron nel frattempo ha creato un problema nella base moderata, perché andando ad Algeri ha definito senza troppi giri di parole il periodo coloniale in Algeria un crimine contro l'umanità, cosa che nemmeno quelli di sinistra in Francia dicono con questa durezza, e quindi è entrato un po' in difficoltà, per così dire, ma ha al contempo, e qui finisco la mia introduzione, delle caratteristiche che potrebbero accontentare sia i centristi che i moderati dell'UMP. Dall'altra parte sono a mezza strada, perché nel frattempo lui ha chiarito che nell'economia non vuole più smantellare le 35 ore, né la legge patrimoniale, né la tassa patrimoniale che c'è in Francia da un bel po'. E quindi il rischio è che sembri non troppo liberista e non abbastanza socialista, come devo dire. Cosa che ovviamente per un candidato al secondo turno che voglia battere la Le Pen è un po' un problema, perché deve riuscire a portare a casa i voti di un arco che elettorale e culturale che abitualmente in Francia, e come farà poi poche settimane dopo le legislative, si scontra più che convergere. Allora cerchiamo di capire meglio con Francesco Maselli, che già vi ho presentato a questo microfono la volta scorsa, che è un giornalista che vive a Parigi e scrive tra gli altri su gli stati generali.com, e che sta redigendo un interessantissimo blog con aggiornamenti plurisettimanali esattamente su ciò che tutti i candidati dicono e sull'andamento che i francesi riservano nei sondaggi ai diversi candidati. Grazie di essere con noi, Francesco. Ciao Oscar, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, da dove vogliamo cominciare? Io comincerei, a dire la verità, prima che andare su Macron, comincerei dalla Le Pen. Sì, io proprio ieri sono andato a Nantes al suo comizio, il grande comizio del Nord. Lei sta facendo, farà, perché ha cominciato proprio ieri, un giro di tutti gli Zenith, che sono i palazzetti dello sport della Francia. Ha cominciato da questa regione, la Bretagna, dove il Front National non è storicamente fortissimo, perché è una regione con un forte impianto autonomista, quindi insomma che non si sposa benissimo invece col discorso fortemente centralista del Front National. E Marine Le Pen, come hai detto tu, insomma, c'ha questo programma che strizza gli occhi alla grandeur francese. Quando parli con tutte le persone che la vanno a sentire, tutti ti dicono: noi eravamo un grande paese, non lo siamo più, e Marine Le Pen ci promette che torneremo ad essere, esatto, e gli altri hanno tutti fallito, e quindi lei alla fine non l'abbiamo mai provata. Sai mai che alla fine uscire dall'euro, tornare al franco, dare la priorità alle aziende francesi negli appalti può essere una soluzione? Tassare il lavoro straniero, soprattutto non far usufruire dei servizi sociali per i primi 2 anni a tutti gli stranieri, siano essi europei o no. Questa è un'altra cosa abbastanza forte, insomma, il programma della Le Pen. Quindi in questo può sedurre un bel po' di elettorato gollista dell'UMP? Sì, può sedurre, sai, lei ha dei grandissimi risultati nella parte più popolare dell'elettorato, chiaramente, che era una parte che con Sarkozy, insomma, votava moltissimo l'UMP. Sarkozy era riuscito a parlare a quelle classi sociali che erano in grande difficoltà e che per esempio Jacques Chirac non lo votavano. Quando Chirac è arrivato al secondo turno nel 2002 contro Jean-Marie Le Pen, il padre, al primo turno prese sotto il 20%, quindi poco. Sarkozy invece aveva dei risultati molto più ampi. Ecco, tutta quella parte che per un lungo periodo ha votato UMP adesso vota Front National, per non parlare poi degli operai, insomma, sono passati direttamente dalla sinistra all'estrema destra. Che a differenza per esempio del nord-ovest come la Bretagna, nel nord-est il fronte nazionale ha veramente in tante parti soppiantato la sinistra nella rappresentanza. Sì, addirittura in alcune parti supera il 50% alle ultime regionali, per cui è diventato quasi un partito nazionale da questo punto di vista, prende voti ovunque. C'era un bellissimo reportage sull'Express questa settimana in cui faceva vedere in moltissime città in 5 anni quanto il Front National fosse riuscito a avanzare dal 7-8% al 25-26-27%, che è tantissimo, insomma, è un boom. Altro che. Cosa propone ai francesi a più basso reddito, a quelli che si sentono esclusi appunto dalla globalizzazione, dalle elite dominanti, che guardano con diffidenza agli enarchi che amministrano sia lo Stato che le multinazionali tedesche, pubbliche e private? Beh, due, secondo me due sono le proposte forti anche di slogan che la Marine Le Pen riesce a far passare. La prima è il ritorno alla pensione a 60 anni, che insomma, mentre tutto il mondo sta andando in direzione opposta, e anche la Francia ha piano piano cominciato ad alzare l'età pensionabile, lei dice torniamo indietro, pensione a 60 anni, punto. Che chiaramente è una cosa nei nostri paesi che stanno andando verso una composizione della società sempre più vecchia, beh, una cosa che piace chiaramente, Carità, però soprattutto. parliamoci chiaro, nel dibattito italiano oramai è la richiesta non solo dei sindacati, non dico 60 anni, ma per il momento scende dal 63-62, poi scende ulteriormente, sia dei sindacati trasversalmente che di pezzi fondamentali della destra che di pezzi fondamentali del PD e della sinistra. Quindi oramai questa è diventata una parola d'ordine. Naturalmente poi deficit, chi lo paga? Boh. Esatto, non si capisce poi chi pagherà. E l'altra cosa che piace tantissimo è la protezione. La Francia è un paese in gran parte molto agricolo e il refrain che senti con gli agricoltori, eccetera, è noi non siamo protetti rispetto ai prodotti che entrano nel nostro paese e ci fanno concorrenza sleale. Quindi questa retorica molto forte nei confronti del dumping, qualunque esso sia, che dovrebbe essere coperto alzando i tassi di importazione, le tasse di importazione. Questa è un'altra cosa, un punto molto, molto importante, del Front National. Loro dicono il protezionismo intelligente, che pure è un'espressione un po' vaga, però ecco, si declina in No, che questo modo. naturalmente per un paese che ha la bilancia commerciale, a differenza dell'Italia, che è arrivata al record l'anno scorso in negativo, questo provocherebbe delle conseguenze più negative che positive per la Francia. Però naturalmente questi sono i punti macro su cui poi è difficile che la gente ponga domande serie. Mi pare che anche la sicurezza sia una questione di fondo, che anche lì non è più una questione destra contro sinistra, perché ho letto che lei propone di aumentare di 2/3 gli edifici destinati a istituti di detenzione rispetto a quelli attuali francesi, rispetto a quelli 60.000, 40.000 in più. Sì, lei tra l'altro, rispetto sempre alla sicurezza, oltre a questo punto del programma di aumentare i posti nelle carceri, che è un cavallo di battaglia storico del Front National, ha attaccato fortissimo ieri la magistratura, dicendo che è lassista, dicendo che c'è il rischio di un governo dei giudici, che è una cosa che noi conosciamo bene. Anche perché ricordiamolo, lei nel frattempo ci ha avuto collaboratori diretti, oltre che il bodyguard, il suo capo di gabinetto, con un fermo di polizia per le indagini in corso sui fondi europei distratti, eccetera, eccetera. Lei si è rifiutata di andare a parlare con i magistrati. Sì, cosa che può fare perché ha l'immunità parlamentare in quanto parlamentare europeo, quindi non, cioè lei può rifiutarsi, i magistrati non hanno mezzi per costringerla, a fare interrogatori, Però, però. voglio dire, a differenza del caso del Penelope Gay per Fion, in realtà le iniziative della magistratura nei confronti del vertice apicale del Fronte Nazionale non hanno risultati negativi nei sondaggi, anzi, sembra quasi il contrario. No, ma perché questa è una cosa simile a quella che abbiamo notato con Donald Trump. Qualunque cosa lei possa fare, il consenso è talmente inossidabile che da questo punto di vista è molto difficile, che uno scandalo del genere possa far cambiare idea a qualcuno che ha deciso di votarla. Anche perché quando parli con le persone che vanno ai suoi comizi, o non sanno proprio di cosa tu stia parlando, cioè non leggono i giornali, quindi non, le notizie sugli scandali non le conoscono e basta, ma quando invece ne sono al corrente ti dicono: vabbè, ma fa parte del sistema, il sistema prova ad attaccarci, è normale, io me lo Certo, perché aspetto. la Le Pen sfida nella radice il sistema che ha governato la Francia per decenni e quindi ovviamente il sistema si difende, per così dire, con le indagini. Esatto, è Però proprio così. è vero che continua a salire anche nei sondaggi sul ballottaggio rispetto a settimana dopo settimana, qualunque sia il candidato in testa per arrivare secondo, voglio dire, tra Fion e Macron. Sì, lei all'inizio, quando queste rilevazioni erano ancora un po', insomma, mancavano 3-4 mesi al secondo turno, era presto, era data tra il 30 e il 35, il Al 36, insomma, ballottaggio, al secondo sì. turno. Oggi è stabilmente sopra il 40, Eh già. addirittura contro François Fillon sarebbe al 45, Sì, cioè che c'è. 45 significa, perché visto che le serie storiche non incorporano precedenti di questo tipo, significa che è possibilissimo che vinca a quel punto. Diciamoci le cose come Sì, stanno. diciamo, è tutto possibile, Sì, ecco, cioè, non c'è dubbio. a questo punto secondo me non siamo in grado di dire il famoso plafond de verre, cioè questo, questa barriera di cristallo che non può essere infranta dal Front National, terrà. Non lo sappiamo, non ne abbiamo idea. Che anche questi sondaggi su serie storiche non troppo attendibili in realtà stanno documentando una marcia progressiva verso l'alto, sì, non verso sai, beh, i sondaggi contano nella dinamica, non nella fotografia. Esattamente, nella dinamica sta succedendo questo. Adesso un minuto di traffico e poi tentiamo di capire. Masto Macron che prima è sceso, adesso risale, non si capisce bene in realtà, perché dà un colpo al cerchio e uno alla botte. Ha davvero più possibilità di Fion, malgrado lo scandalo, poi al secondo turno di vincere? Tra un minuto. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati. Nel frattempo le agenzie informano che l'ex presidente del Front National Jean-Marie Le Pen, e quindi il padre, sapete, dello scontro che poi ha avuto la figlia negli anni e così via, che era sotto processo per aver definito urticante e puzzolente la presenza dei Rom nel 2013, è stato condannato a un'ammenda di 5.000 euro, confermata anche in appello. E la Corte d'Appello di Aix-en-Provence lo ha di nuovo riconosciuto appunto colpevole di istigazione all'odio e alla discriminazione per queste frangi, pronunciate a Nizza nel corso di una conferenza stampa. Credo che non abbia alcun effetto però sulla corsa elettorale della figlia, o no, Francesco? Lui è stato cacciato malamente dal Front National sotto grande pressione di Florian Philippot, che è un po' l'artefice di questa dediabolizzazione del Front National. Ma tra l'altro queste frasi sono la cosa minore che ha detto, sì. Cose infinitamente peggiori nella sua storia politica, altro che. Andiamo a Macron allora, perché a me pare che Macron incarni un po' esattamente tutto quello che un numero crescente di francesi che scelgono, almeno nei sondaggi, la Le Pen, dicono di non volere più. Cioè un'impronta elitista, europeista, i vincoli esterni, le compatibilità, eccetera, eccetera. In più dietro non ce l'ha un'organizzazione come quella dell'UMP di Fillon. Non può portare a casa i voti dei cattolici integralisti, che in realtà in Fillon lo votano e come. Come la vedi la cosa? Questa è una bella domanda, perché da un lato, dal punto di vista mediatico, Macron è molto bravo, pur con questa sua esternazione sull'Algeria, che insomma è stata un'esternazione secondo me che viene dall'inesperienza del candidato, nel senso che magari lui ha detto delle cose anche di buon senso e sì, condivisibili, però, ma non le dici in campagna elettorale. Ma in questo senso il avere uno come François Bayrou, che è questo centrista che si è aggiunto, può essere molto importante per lui, non solo dal punto di vista elettorale, ma è per questo che ha riguadagnato 4 punti. Sì, è molto probabile, sì, che diciamo sia una coincidenza, è fin troppo strano, ecco, perché da quando è stato annunciato l'accordo lui ha guadagnato automaticamente 3-4 punti. Anche qua ha guadagnato automaticamente 3-4 punti perché fino a un giorno prima Bayrou era stimato al 5%, e quindi il sondaggio si è automaticamente asciugato. Questo. Esatto. Ma esponenti della sinistra che lo scelgono, ho visto sì, con Bendì e così via, che però non so quantificare in termini elettorali, ma è qualche esponente significativo da sinistra in grado di supportare? Non ci sarà mai, perché... No? Non si sa, perché probabilmente si vocifera da tempo che Ségolène Royal, che è stata candidata dei socialisti nel 2007 contro Sarkozy e poi ha perso, potrebbe sostenerlo. Quello che sappiamo è che loro si sentono telefonicamente spessissimo, lei continuamente gli dà consigli, hanno un bellissimo rapporto, lei non nasconde diciamo questa passione che ha per Macron. Da qui a lasciare il candidato del proprio partito, ecco, ce ne vuole, non lo sappiamo ancora. Ma Benoît Hamon, il candidato ufficiale che ha vinto il primario del Partito Socialista, come si sta portando nei sondaggi? Lui è intorno al 14-15, non ha avuto una grande dinamica, tra l'altro è l'unico che per adesso non ha fatto un grande comizio molto partecipato rispetto agli altri candidati. perché ha passato l'ultimo, diciamo, gli ultimi 20 giorni a cercare di mettersi d'accordo con il candidato dei Verdi, con cui poi alla fine l'accordo è stato fatto, e Jean-Luc Mélenchon, che è il leader della sinistra radicale, con cui invece l'accordo molto probabilmente non si farà, ma non credo che ci contino più di tanto. Stanno cercando, mi sembra, di addossare la colpa della divisione della sinistra l'uno all'altro. Mi sembra che sia un po', vabbè, la solita storia, insomma. Pensano alle elezioni legislative più che altro, da quello sì, che capisco. Pensano a essere egemoni dopo l'elezione. Il problema è che poi l'elezione non c'è più, cioè una volta che si vota si è votato, punto. Si gira pagina. Quindi, insomma, per quanto riguarda Macron, dicevamo, lui ha un po' questo programma centrista, europeista, che sicuramente piace a una parte dei francesi. In Francia esiste un elettorato europeista che negli ultimi anni era abbastanza confuso, perché non aveva trovato ancora il suo campione. In questo senso Macron dà una risposta. Che è maggioritario? Non lo so. Bisogna capire se alla fine, a un secondo turno ipotetico, tutti si spostano su di lui per evitare Marine Le Pen. Ecco, mi sembra che sarà più un voto contro un determinato progetto che per un progetto. Sa di fatto che alcune cose del suo programma economico che ha iniziato a dare alla stampa sono interessanti. A me è interessato in particolare, nel dibattito che si sta facendo in Francia sulle nuove forme di welfare, la sua proposta di allargare il sussidio di disoccupazione a tutti, renderlo universale. Quindi prendere coscienza che il lavoro non è più un lavoro dipendente e basta, ma che ormai il futuro è che è il lavoro autonomo, comunque delle forme diverse di lavoro, e quindi tutti hanno diritto a dei sussidi di disoccupazione a prescindere dal loro stato contrattuale. Questa è un'idea, secondo me, innovativa. Bisogna capire anche poi come la finanzia e come la disciplina. Ecco, è un tema in più. Questo significherebbe, come in Italia, darlo alle partite IVA, insomma, ecco, e non solo al lavoro dipendente. Non è un reddito di cittadinanza, però ho l'impressione che questa storia del reddito di cittadinanza diventerà un po' il cavallo di battaglia congiunto di tutti i prossimi turni elettorali in Europa. In Italia si capisce che sarà inevitabilmente così. In Francia? In Francia per adesso è un dibattito, cioè è una proposta che ha fatto solo Benoît Hamon e gli altri hanno rifiutato tutti. Anche quelli molto di sinistra radicale. Jean-Luc Mélenchon ha più volte detto che è un regalo alle imprese, perché se tu dai 750 euro a tutti, l'impresa a quel punto deciderà di tagliarti il salario, perché tanto sa che arriva lo Stato e ti dà la differenza rispetto a quello che ti pagava prima. Poi non l'ha ben spiegato dal punto di vista economico, poi effettivamente questo come capita o come non capita, però insomma non mi sembra che sia grandemente condiviso questo progetto. Probabilmente nei prossimi anni però diventerà un tema, se ne sta parlando. Piketty, che è un economista francese molto famoso anche in Italia, ha scritto Il Capitale del XXI secolo, sì. È nell'equipe di Benoît Hamon e si occupa proprio del reddito universale. È probabile che nei prossimi anni un dibattito sul tema ci sarà. In Italia per adesso è Grillo che tende a sponsorizzare questa. Sì, ma insomma si capisce dal Renzi post americano che c'è una controproposta in arrivo. Berlusconi ha detto che anche lui ci darà la sua idea di reddito di cittadinanza. Io ricordo che in Francia, quando si è fatto all'inizio degli anni 2000, era il 2002 se non sbaglio, il riordino dei sussidi sociali, disoccupazione eccetera, c'è comunque uno strumento che è molto più, tra virgolette, generoso di quanto non sia in Italia. Generoso non solo in termini di assegno mensile, ma anche perché insomma, arriva fino a sostenere chi ha un reddito notevole, per così dire. Quindi, però vedremo. Io ringrazio naturalmente Francesco, ci sentiamo entro un paio di settimane, vediamo. Ma come avrete capito, cari ascoltatori, l'ipotesi che vinca Le Pen non è affatto peregrina, e i media si devono abituare a questo, perché ragionare con la testa rivolta al passato è un errore, come ci insegnano recenti turni elettorali o scelte referendarie come quella britannica. Continuate su Radio 24, appuntamento come Alessandro Milano, domani mattina alle 8:20, attenti a noi due.